sole 23, c'è qualcuno? Claudio, mi senti? Sì, ancora. Sezione di fruscia. Si sporca, stavi facendo, buonasera. Provate a giazzeggio, va, giazzeggio. Buonasera. Io 5, ogni tanto trovo un colpo di portante. Già sai che sono io. Ma non c'è di più, c'è tanto oggi fa festa. E di festa? Certo. E invece la sera è accesa adesso. Ma non ripulsente? Certo, non si trova niente lì, sei spaccato. Cosa è spaccato così, andando a torrente. Su Mazzano sono andato a cimitero. E stasera pensavo di andare a punire i fiori, perché mi era preparato. Sono andato e li ho messi. C'è un po' di macchietto al parcheggio, no? No, come sono entrato dentro la via del cimitero e mi sono parcheggiato. C'erano i vigili, stava in fondo, mi ha detto, e l'ho trovato subito. Ma dalla parte della traipertina o dall'altra parte? La via del produttore, sì. Meno male, di solito questi giorni c'era macello, io sono andato l'altro giorno, ero tranquillo, però sono andato presto, verso 9:30, ho preso i fiori sono andato lì e ho messo tutto a posto, almeno che se non sono stato a cercare parcheggio eccetera, era tutto vuoto quando sono andato io. Oggi non si poteva parcheggiare, domani che sarà un macello, sarà. Oggi dopo scendere domani mattina perché devo andare dalla parte di mia madre, che lì non ho fatto nulla. E io vado sempre dalla parte della Fraisertile, là. Vado sempre da lì e faccio il giro completo, tanto sono tutti di quella zona e per cui da via del portatore non mi conviene perché tocca attraversare tutto il cimitero, allora passo là perché sono vicini, capito? No, domani mi tocca entrare dall'altra parte dove c'è il bruciatore, da lì mi tocca entrare perché mia madre è lì vicino in tomba ed è lì vicino, quindi devo mettere lì per forza un attimo, sono qua, è così, bisogna andare prima perché oggi e domani e dopodomani è sempre pieno e non è tanto facile trovare parcheggio, per quello domani mattina vado presto e guardo dalla parte dove c'è il bruciatore, entro lì perché mi viene più vicino e poi finisco di fare il giro come ho fatto da mia madre, finisco di fare il giro e mi mando a casa. E magari se si va presto allora è diversa la questione, capito? Perché infatti bisogna andare presto, sennò dopo scappando tutti i casi è un macello, non è tanto facile trovare parcheggio, quello lì. Io mi sento più, sono andato, ho fatto il dovere e sono a posto. Infatti, tocca fare così, tocca fare piano piano, non sono prendendo. Infatti, così che ti sei staccato per quello, andando e tornando, e ti fa bene, almeno metti i muscoli a disposizione giusta. Già, me lo rilassi, mi devo dire. Se ne vanno di fatto già camminata, c'è anche Manzano, che stasera è ancora a Biggio. Mi prendo il tracco, ma tracco è vero, Sì, va bene, sì, cazzo, non sei a quel punto, no, grazie a Dio, già c'è buone le gambe, per cui sei tranquillo. E vabbè, un po' di... tranquillo, va. Poi perché martedì sono salito sul tetto, stavo cercando di buttarle, di fare, di togliere il pezzo dal tubo e ho preso quello di scillo. Adesso ce devo salire torno a sabato per fare il buco al fianco del tubo che c'è e provare a toglierlo a vedere. Se non riesci mi tocca pulire di forza il buco. Ah, c'è per il fatto della TV. Siccome c'è un palo vuoto, ho messo in quel, le antenne l'ho messo in quel palo lì per vedere. Non mi sono preoccupato assai, ma per farlo vedere all'aria a quell'altro di fronte a me, che lui vedeva pochi canali. E sono salito, ho fatto, sì, ho sistemato così provvisoriamente, e ho lasciato tutto su, sotto tetto. Adesso sabato, se buona la giornata, ci risalgo e finisco direttamente tutto quanto, boh, un'ora, un'ora e mezzo e ho finito. E vabbè, ma se lo vedi bene tu dovrebbe vederlo bene lui anche tu. Sì, no, con quella da piazzata l'antenna si vede bene, perché l'antenna del ripetitore si vede da dove ho piazzato l'antenna. Appena appena se metto il tubo dove lo devo mettere, appena appena più sforzato ancora, lui che c'è più alto. Non è difficile, è la zona che siamo noi, abbastanza libero, per cui non è che ci siano palazzi alti che impediscono, per cui si vede, si vede. Cazzo, in campagna io ce l'ho sopra un albero di olivo attaccata al piede dell'antenna CD. E c'è quella a pannello, un'antenna sola a pannello, e vedo tutti i canali, cazzo. E a pensare io sono in un posto, eppure si vede tutto, non so. Sì, no, già è così. No, adesso sabato io faccio il buco con picca punta, madura e vaggio. E poi se non esce quel pezzo dal tubo io lo metto in quel buco che faccio. Tanto è appena più spostato, non gli fa nulla, e poi il congiungimento in alto. Se non basta io dovrò fare a giorno, ne viene un altro bogo, e c'è sopra un altro bogo di impasto, ma pianello di ruduto. E faccio così. Il tubo non c'è bisogno di mettere tanto lungo, capito? Perché mettono, scherzi, no? Cazzo, siamo liberi qua, no? Scherzi, metto un tubo lungo, anche 3 metri, il tubo l'antenna più in alto sulla punta, ma che cosa, se sei libero? Prende meno vento se la metti più in basso, no? Capito? Perché la vediamo noi, perché è tutto libero, capito? Per cui non c'è problema noi. E molti invece la mettono proprio col tubo lungo, in alto, l'antenna. Ah, che cosa? Poi se fa vento nella butta. No, il tubo l'ho preso da 3 metri io. 1 metro ce ne va dentro e 2 metri fuori rimane. Che anche se fuori era più lungo, era anche laggiù misurato, era 2,20 metri era lungo. Io lo metto 2 metri fuori e va bene lo stesso, a voglia. Ah, io ce l'ho sull'antenna TV, sul baracchino, no? Il tubo è, mi sembra, 1,50 metri, una cosa del genere. Bello tutto, perché siamo liberi, capito? Per cui li vediamo tutti i canali, capito? Magari portati in un posto, ci sono palazzi che coprono, ma qua non abbiamo palazzi alti noi, capito? Ecco perché vediamo tutto. No, infatti con 2 metri dovrebbe bastare a voglia. Con 2 metri già basta. Devo mettere più alto possibile l'antenna. Va benissimo. Poi togliamo sui muri, come te vedo buono in muro, perché sotto c'è la staffa, c'è, mettiamo dentro, c'è un metro di tubo. E quindi già va benissimo. E ha voglia se andare. Dovrebbe andare bene, sì. E io ne ho piazzato una in camera, in facciata della strada, però ho preso quello della quel gas della parabola, quello, ho fatto quattro buchi, attaccato in facciata, avvicino alla finestra, con un'antenna solo, un'antenna solo, cazzo, vedo tutto, cazzo, con un'antenna solo vedo tutto. Primo e secondo, perché invece quelle sul tetto ci sono due antenne, primo e secondo, capito? Sì, no, tanto non fa nulla, anche se c'è l'antenna del primo, l'aiuta un pochino ai canali, almeno quello del primo l'aiuta. Oh. Se è vera, io dirò a Don Raffuni, quindi no, non me ne ha fatto nulla. Ora ho salvato, non lo tocco più, non lo tocco in chi vi sopra, ma non faccio più. Beh, infatti adesso più in facciata non ce l'ho più io. Prima c'avevo il cavo che serveva, perché noi abbiamo un muro sul tetto, no? Già l'hai visto dove va attaccata le antenne, però rompono quando devono fare lavori sui cavi in chiesa, rompono. Allora, non so, non avevo con cavi pendenti all'esterno, capito? Ho messo in facciata l'antenna e vedo tutto, tranquillo, pacifico, con un'antenna solo. Ma questo già ce l'ho tutto dentro, infatti devo infilare, quando attacco le antenne devo infilare il filo dentro il tubo, devo infilare e collegarlo tutto sotto il tetto. È tutto sotto il tetto e va tutto giù. Nella cosa, scende il cavo, giù scende. La centralizzata è così. Noi abbiamo la centralizzata che sul muro c'è l'antenna, sul tetto, e lì proprio sulla porta c'è un buco che va a finire ogni piano rosso. Ogni piano rosso c'è un dispartitore fino a pian terreno, capito? Quella è la centralizzata, che sono in cucina la centralizzata, mentre invece quella di questa qua c'è internamente, per cui non mi sono problemi. Cavi e steli non li ho io. Sì, no, è così, infatti è così, qua vedo così io. Questa è centralizzata e si vede benissimo. Però da quella che ho io è tutto fatto in una maniera che arriva anche nelle altre camere. L'impianto vecchio hanno fatto fastidio, cazzo, hanno messo il colorato fine, cazzo, si vede che sono stati aggiunti e non passava il capo, un macello, allora se l'avevamo messo tutto esternamente, però dopo io metto la legge popolare, me l'ha fatto togliere perché hanno fatto fare l'impianto direttamente a un piano rosso e cavi non si deve essere puri, capito? Tutto internamente. E così è, e per cui la centralizzata è tutto internamente, non cavi, perché ogni piano c'è un dispartitore, capito? Sì, come noi. Ogni piano c'è il cavo che entra sia da una parte che dall'altra. Così hanno fatto a noi. Oh, io ho l'antenna mia, ho anche, e ho messo su e lo prendo da due parti, lo prendo. rispetto su quella della camera, rispetto della camera mia, io lì ho messo quella a parete vicino alla finestra, poi ho messo quello quattro bulloni, quella la caccia della staffa di invece mettere la parabola, ho messo quella staffa e ho messo una stella al solo e ho visto che funziona tutto perfettamente e per cui ho fatto ho bucato il muro per cui tutto internamente, per cui non ho messo l'antenna infatti avvicino la finestra e basta. Sì, infatti è così che si fa. Io ma là lascio tutto così perché sono dentro in sala, secondo come vada dalla sala arrivo sino al soggiorno e lo porto così, li porto e vedrai quanto una cosa aiuta. E invece il tanto vecchio casa che andava su Pianerottolo e da Pianerottolo faceva sotto il pavimento fino all'angolo della sala c'era il capo interrotto e non vedevo niente. Cazzo, l'ho sotto e non sono riuscito a infilare il capo nuovo, allora l'avevo messo esternamente, ma allora invece dopo abbiamo fatto tutta la modifica per cui non ce ne sono, capito? Ho fatto un buco su tetto, la volta e scende vicino alla al tubo di scarico della stufa. Io ho messo in forno, ho preso quella canaletta di plastica, ho fatto la canaletta quando l'ho preso. Sì, infatti è così. No, io sono entrato dentro i tubi vuoti che ci sono di elettrico vicino e li ho passati in quei tubi vuoti. Poi sono arrivato giustina in cucina, in camera qua, in camera mia, e nella sala c'è quella delle centralizzate. E tutta un'altra cosa, è tutto internamente, capito? Qui magari ci vorrebbe 25 metri di cavo da una parte all'altra, invece adesso bastano 7-8 metri e c'ho il cavo dappertutto. Sì, ma io li ho passati, ho visto che c'erano i tubi dove c'era l'elettrico, i tubi vuoti, allora li ho passati nei tubi vuoti e mi sono arrivato da camera fino alla cucina, dalla camera mia alla camera, anzi da questa camera dove sono alla camera mia e poi l'ho portato in soggiorno e in ogni posto che ho trovato un tubo vuoto ci ha fatto passare. La centralizzata c'era solo in cucina centralizzata, anche le altre camere tutto fatto bene, non si vede nulla per tutta qui. E io faccio una TV in ogni camera, sono in bagno, mi manca la TV. No, io ce l'ho, quello centralizzato ce l'ho in sala, ce l'ho. E c'ho il televisore grande lì. Infatti entro in TV a Baida mio, io non mezzo lì. Perché se anche mangiamo lì, lo vediamo tutti quanti dentro lì, in sala. No, io ce l'ho la 42, ce l'ho qua davanti, quella che sto guardando adesso vicino a me, in questa cameretta. Gli altri sono tutti a 32, capito? Gli altri tre sono tutti a 32, per cui perché questa è 42. È abbastanza grande, non si sa più grande, io l'avrei presa più grande, ma non si sa. No, io ho quella che è 47 pollici, avevo preso in offerta 47 pollici, è un bel manno. Infatti io viaggio un vent'anni, viaggio questo televisore. Ehi, va, cazzo, fine da una, 55, 65, cazzo. 258 euro. Oh, ma cosa? A LED, quello lì. Sì, esatto, sì, al leader, lì di fronte al cimitero, dove c'era il marcatore. Lì, la leader, c'è l'offerta, certo. Ma è troppo grande, se no magari se non ne avrei avuto l'avrei preso, ma come ce li ho, cosa ne faccio? Già basta questa a 42, l'altra con tutta a 32 e sono un bombo. No, quello che ho io in sala è il plasma, c'ho il vetro davanti e si vede abbastanza bene, non è a LED né nulla. Ma io li vedo tutti bene, non so se sono a LED, se sono a... Io l'importante è che veda bene il quadro, dopo sono perfetti, sono perfetti, anche da lontano, per cui va benissimo, vanno bene, so. E certe volte funziona più bene così, che costano poco, che quelli che costano parecchio. Ma finché vanno questi qua, e a Sandà, cioè, ne ho due che sono tutte e due da, uno da 37, da 37 pollici e l'altro 32, questo che è in camera è 32, l'altro che si aggiorna è 37, ma sono i LCD, sono quelli che c'erano prima, si vedono benissimo con questi qua, si sì, che andano i vostri andare, l'altro invece in cucina è a LED. Infatti mi chiesero un secondo che va in cucina. Ah, vede già poco le macchine in televisione, va. Cazzo. E adesso sono le offerte, costa la cazzata, per cui, ma cosa le fai? Se ce li hai, cosa le fai? Per carità. Oh, sto guardando quello di... quel diluvio che è successo in Spagna lì. Sì, anche qua mi l'hanno dato, ha fatto un po' di disastro, e chi mi si è passato davvero l'era, che ha distrutto tutto, macchine sopra uno sopra l'altro, palazzi, la lampada mi dai un palazzo, un muro, anzi due mi dai di due palazzi, la lampada, fatto un disastro, proprio bonti nel lampado, peggio dell'Italia è. Davvero, lì è passato forte, cazzo, non so quante era forte, cazzo, Rumento e Leva, cazzo, mi ha fatto la vita zona, mi ha fatto la vita zona, mi ha fatto la vita zona, mi ha distrutto un bel di cosa, un bel. Ce l'aspettiamo in ogni posto, in ogni città, in ogni posto ce l'aspettiamo, in tutti i posti ce l'aspettiamo. In Cina, a pure va, adesso ne buro in cosa, in Russia dici. Vedrai che pure in Russia succede una cosa del genere. Sì, succedono dappertutto queste cose. Allora, succedono dappertutto. Solo magari prima non c'erano i TV eccetera, non li vedevamo, ma succede sempre queste cose, no. Adesso vediamo tutto da tutte le parti del mondo, perché prima non li vedevamo, adesso invece vediamo tutto e sembrano che anche stanno succedendo solo adesso, ma anche prima succedevano, so. Ehi, anche prima succedevano, però ora è ancora peggio, ora succede ancora peggio succedendo in tutte le nazioni, non vi credina che il suo disastro è fa qui panutra per colpa dell'uomo, se non si muove ne fa a punire a fuoco, sono ancora peggio. Perché a fare soldi tutti pensano a fare soldi, a togliere da fare, fare lavori e le cose, invece pensare a fare le cose giuste, non le fanno e vanno avanti così. Ecco che succede queste cose per il clima, rovinano il clima, capito? Per cui succede queste patate. Poi il problema proprietaria assolutamente sempre, cazzo. Specialmente in America, cazzo, lì all'ordine del giorno, cazzo, si telefono, e qua nulla. Sì, temporali si telefono, però lo faceva disastro come qua, come là, capito? Forse. No, che... Italia, già è successo pure vicino a Cagliari, ci sono avuti tutto allagato, ci sono avuti i campi tutto allagato e tutto distrutto, ma questo perché no, è successo perché non hanno pulito i canali come dovevano pulirli, ecco cosa è, se viene fatto di cosa è, non era giustizia uscire la pura e non dare i campi. In Italia ma pensi cosa è, in altra Italia non hanno pulito nulla, fatto nulla, ci ho fatto tutto grande in giro di 2 mesi ha allagato tutto due gusti. Ma infatti, poi non puliscono, capito? Non puliscono i canali, anche sulle strade possesse, non le puliscono, che è chiaro che sta allagato subito, poi pianura è peggio ancora, perché l'acqua non è che corre molto, in pianura si allaga e basta, dai chissi è stato facile, mentre se c'è la pendenza corre e distrugge quando trova passando l'acqua, capito? E infatti è così, l'acqua cioè si vede che non basta, il canale esce fuori e dove passa l'acqua distrugge e fa di, in onda tutto in onda. Insomma se ne sono fottiti del comune, no, non ha fatto nulla e quindi sai chi te che fa fatti vedere che oggi siamo passati noi che con leva o devi pulire un canale, va pulito, l'acqua non deve uscire fuori dal canale come piacchieri. Ogni volta che piove si allaga tutto, perché ci sono anche i tombini stretti, non basta, non li puliscono e si intasa, e lì quando fa temporale non si può passare con la macchina, altre volte le macchine si bloccano in mezzo all'acqua, non è detto, perché fanno le cose che non dovevano fare, devono pulire i canali. Ma lì non è fatto di canale, no, Giomarì, lì se non da tutto, perché prima l'acqua ci usciva dentro nel campo, dalle suore ci entrava, dentro lì entrava l'acqua prima, quando pioveva, ma invece non c'è più scolo e rimane tutto appoggiata lì l'acqua, le cose che hanno fatto non basta a raccoglierla l'acqua, ecco cos'è, avevo un paio di ripa andando a Sinireva. Dove sono le suore? Lì c'era sempre un canale che scendeva dalla Madonnina, dentro lì dove sono le suore e passava sempre lì l'acqua, invece adesso qui l'hanno fatto, hanno fabbricato, hanno chiuso parecchie cose e l'acqua non corre, infatti è così. E lì c'era il tubo che andava a finire dentro nelle cose delle suore, c'era il tubo che poi ci usciva, andava in fondo, andava. E quel tubo lì loro l'hanno chiuso l'anno, ecco perché non scorre più l'acqua come prima. Nessun tubo loro non lo dovevano toccare le suore, ecco cosa è. Ma hanno chiuso tutto quando hanno costruito il canale, dovevano lasciare libero. Fare i ponticelli e l'acqua basta far lasciare correre, invece hanno chiuso tutto, è chiaro. E hanno fatto anche quel coppetto, quel campetto dove ci sono le piscine, puoi immaginare. E dove è fatta l'acqua? E allora qui si allaga. Sì, io sapevo, in chi vi si allaga Roma Pessimi? Ma c'è tutto da Rubombino, Naccia. Ha giusto, la sua volta si è acciato su Bombino a 1 metro, si è acciato. Però passando io, che era a vendere a volte, si è allagato tutto e si è acciato lo Bombino a 1 metro, si è acciato. Ma com'è non verrà nessuno? Puoi immaginare, Castello, è una puttana, sai, cattura, per carità. riuscire a campare. Se sentiamo sto io chiudo, dai, buon proseguimento, grazie alla chiacchierata a te, a risentirci, ok? Ok Gio Maria, alle prossime, ok, ciao Gio Maria.